Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con il regista attore Massimo Popolizio per parlare dello spettacolo della prima nazionale di Un nemico del popolo al Teatro Argentina a Roma dal 20 marzo al 28 aprile 2019. Massimo, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Ciao. Lo raccontiamo brevemente? Sì, in una piccola comunità che cioè, può essere, abbiamo deciso che sia insomma, nel Kentucky, piuttosto che nel Tennessee, sì, una piccola comunità che è un frammento quindi di una grande società, di una piccola società, dove tutti si conoscono, dove esiste un giornale, dove esiste un editore, dove esiste un sindaco, cioè dove tutti i poteri sono ben definiti. C'è la possibilità, diciamo, che un luogo termale, il famoso stabilimento delle terme di questo posto, possa diventare la possibilità di sviluppo, di riscatto di questa piccola comunità, quindi anche di arricchimento di questa piccola comunità. Sta di fatto che il fratello del sindaco di questa comunità, cioè io, il dottor Stockman, scopre che queste acque sono inquinate perché diciamo, lo stabilimento è stato costruito a valle di alcune concerie. Quindi la prima domanda è rendere pubblico questo rapporto dell'inquinamento, decidere di bonificarle. Questa bonifica costerebbe una cifra spropositata, 1 milione di corone, dice il testo, quindi bisognerebbe rifare tutte le condutture della città, accettare di spargere la notizia che le acque sono inquinate e quindi rinunciare alla possibilità di sviluppo di questa cittadina. E quindi questa è la prima domanda che il testo pone, cioè come coniugare il diritto alla salute, il diritto alla verità, quindi il diritto di sapere le cose, e il diritto allo sviluppo, anche allo sviluppo, quindi al benessere di questa cittadina. In questa prima fase i giornali sono da parte di Stockman, avallano questa grande scoperta, vogliono pubblicare il rapporto perché pensano in questo modo di scacciare il sindaco e il vecchio consiglio comunale. Ma quando il sindaco pone il fatto, se questo costa così tanto bonificare, allora aumentiamo le tasse, cioè è la comunità stessa che deve far fronte alle spese della bonifica e a questo punto tutti cambiano idea, cambia del popolo, cambia del giornale, perché in questo modo, come dice, cioè si potrebbero mettere le mani nelle tasche dei cittadini e quindi se si vuole vivere bene bisogna pagare le spese. Questa è la prima, quindi tutti fanno marcia indietro e questa è la prima fine, diciamo, la prima tranche dello spettacolo. Il secondo spettacolo è la seconda parte, lo spettacolo è più cattiva, cioè il dottor Stockman decide di difendersi non più con la stampa, ma diciamo, facendo una grande riunione popolare per dire a tutti, per dire al popolo esattamente come stanno le cose. Ma in questa riunione popolare, dove il sindaco espone la sua opinione, dove il sindaco ha le sue ragioni, dove il popolo dà ragione al sindaco quando dice ma noi non possiamo dar retta a qualcuno che diciamo, per un presunto inquinamento ci fa, cioè, per cui rinunciamo alla possibilità di arricchirci e di diventare la, diciamo, la cittadina più ricca della contea, e quindi il popolo certamente, come succede quando si parla alla pancia della gente, no? Che va molto di moda a parlare alla pancia della gente, questa pancia, questa gente risponde: sì, siamo con te, certamente siamo con te. A questo punto Stockman, che non è un politico e non sa parlare il politichese, non se la prende più con i dirigenti, con l'editore del giornale, con il presidente dell'associazione dei piccoli proprietari di case, insomma, che hanno fatto tutti marcia indietro per le sue ragioni, ma se la prende con chi? Se la prende con la maggioranza, se la prende con la famosa maggioranza compatta, che era quella che sarebbe dovuta essere dietro di lui, insomma, e con lui praticamente, e prende, se la prende con chi ha eletto, diciamo, con chi ha eletto il sindaco, se la prende dicendo che, diciamo, i giornali e la politica manda avanti quel rovinoso principio che assegna agli ignoranti, agli incompetenti, agli immaturi lo stesso diritto di chi ha studiato, lo stesso identico diritto di governare, premiare, condannare e decidere. E chiaramente questa è una provocazione di Ibsen, è una grande provocazione buttata in platea, ma questa provocazione, almeno del nostro spettacolo, accoglie sempre dei grandi applausi, ahimè. Cioè, quindi, come dire, in un momento evidentemente così delicato della nostra storia politica, in questo momento di grande crisi politica, beh, diciamo, probabilmente questo discorso fa breccia nei cuori degli spettatori. Sta di fatto che lo spettacolo si chiude con una frase, cioè Stockman chiaramente rimane solo, anzi gli spaccano anche casa, perché questo discorso la maggioranza lo rende nemico del popolo, quindi lui viene proclamato un nemico del popolo, il popolo lo fa rimanere solo, non, il petraio non gli va a rifare il vetro, cacciano la figlia da scuola, alla signora Stockman non gli fanno più credito, insomma lo fanno rimanere solo, lo isolano. Le battute finali di Stockman sono solo, ma sono solo, essendo solo sono l'uomo più forte del mondo, perché battendomi per la verità sono rimasto solo, ma i soli devono imparare ad essere forti, e i forti sono le persone che rimangono sole, e verso, diciamo, rimanendo soli si avvia verso il fondo del teatro, dove lì, insomma, scenicamente si apre tutto, casca la parete, si apre il fondo del teatro, e quindi è come dire, utopisticamente vai a combattere verso qualcosa, ecco, che è, diciamo, il tuo infinito. Ecco, hai detto della provocazione, cosa apprezzi della scrittura di Ibsen? Apprezzo il fatto che innanzitutto è un contemporaneo del 1880, cioè, voglio dire, molti testi o molte drammaturgie contemporanee non riescono a essere così forti come lo è questa, chiaramente. Il testo rischia di essere estremamente retorico se non fosse, almeno questo è il mio parere, recitato dagli attori in modo anche molto umoristico, cioè, questa roba non è in modo, cioè, non c'è nulla di retorico, è detto tutta una certa necessità anche, diciamo, comica, se vuoi, ironica, umoristica, i personaggi sono tutti un po' sopra le righe, e proprio per questo, essendo così sopra le righe, il sindaco interpretato da Maria Paiado e quindi da una donna non stride, o comunque non strizza l'occhio alla possibilità contemporanea che ci sono delle sindache nel nostro territorio, anzi fa una parte di un uomo, Maria, ma questa cosa, diciamo, interpretativamente parlando, è molto forte, è molto azzeccata. Apprezzo il fatto che da questo testo cosa si evince? Si evince innanzitutto che la mette un po', sgretola un po' il principio democratico, e quindi questa provocazione mi piace, cioè che la democrazia in realtà è una forma di governo per il popolo e con il popolo, e non solo dal popolo, come, diciamo, ci viene propinata, diciamo, l'ultima primo anno, per cui con questa bella alibi sono stato eletto dal popolo e quindi sono stato eletto dal popolo per fare, e te fanno pure la legge sulla legittima difesa, oppure si rischia magari pure di abbattere la legge sull'aborto, perché sei stato eletto dal popolo, che anche se devi lavorare anche con il popolo e per il popolo. E si evince anche che probabilmente la forza della maggioranza o il potere della maggioranza è un potere che probabilmente dei politici assennati dovrebbero anche diminuire o dovrebbero essere più, non è assoluto il potere della maggioranza, e che ci sia una divisione molto più forte tra principio democratico e principio maggioritario, che si governa, come dire, con e per il popolo, non solo dal popolo. Ecco, questo sono argomenti forti, specialmente in questo momento. E l'altro argomento molto divertente è che il vero problema, e qui è una cosa che, cioè che è l'inquinamento di queste terme. Cioè le battute di Stockman, quando il presidente dell'associazione dei proprietari delle case, che rappresenta il ceto medio, e il ceto medio è la maggioranza in quella comunità, e possiamo immaginare quale sia, diciamo, la maggioranza delle nostre città, no? Magari le periferie, eccetera, cambiate chiaramente, però devo dire, viene a proporre la sua forza, dice: guardi, noi appoggiamo con tutte le forze la sua iniziativa di bonificare queste terme, o di lottare per l'inquinamento di queste terme. Il Stockman risponde molto candidamente: cioè, io non credo che per una cosa di così buon senso siano necessarie tante precauzioni. Invece, probabilmente, alla fine di queste terme, proprio perché, diciamo, queste precauzioni non sono state prese, di questo inquinamento nessuno più si occupa. Cioè, il problema principale, che è quello di far star bene le persone, il problema principale del, come può essere tanti problemi principali delle città, questi vengono usati invece dai media, dai giornali, dal ceto medio, tutto per esercitare un potere, ma nessuno in realtà se ne occupa. Un'ultima curiosità: come mai avete scelto questa dimensione dei personaggi, come dicevi prima, un po' sopra le righe? Ti dico, perché è un testo in realtà che, se immaginatelo fatto realisticamente o naturalisticamente intorno a un tavolo con delle sedie vere, la tazza di tè che mangiano il roast beef veramente, cioè una recitazione più naturalistica di questa cosa, il testo non avrebbe letto, cioè sarebbe stato veramente vecchissimo. Io ho visto tre fondamentali messe in scena, una, diciamo, che era italiana, che era stata fatta da Gianmarco Tognazzi, che addirittura l'avevano un po' attualizzata, come parlavano padano, un po' veneto, un po' lombardo, e questa cosa veramente non aveva spessore proprio, il testo diventava veramente una barzelletta, proprio perché era fatto seriamente, diventava una barzelletta. L'altro era molto bello, ma era da Miller, cioè la riscrittura di Miller, perché Miller ne ha fatto uno spettacolo, fatto da Sciaccaluga con Lavia e De Rospagni, ma era una critica molto forte al consumismo americano, scritta da Miller, e anche quella mi sembrava un po' vecchiotta oggi, allora no, 12 anni fa era anche un grande spettacolo, ma oggi di nuovo fare una critica al consumismo americano mi sembra proprio una cosa vecchiotta. L'altra molto più bella era quella di Ostermeyer, dove tutti erano vestiti normalmente, il popolo era fatto da alcuni attori che erano in platea insieme, quindi si mischiavano insieme agli spettatori, e quindi c'era un rapporto, diciamo, la platea diventava il popolo nel discorso al popolo del dottor Stockman, ma anche quello se lo potevano permettere, loro se lo possono permettere perché sono tedeschi, e quindi i tedeschi hanno questa abitudine a rendere tutto contemporaneo, cioè loro possono fare un testo di Goethe o un testo di Schiller o un testo vestiti così, per loro è abbastanza normale. Se lo facessimo noi, con la lingua che abbiamo, veramente sembrerebbe una stupida, almeno per mio, diciamo, un'attualizzazione che avrebbe perso, diciamo, avrebbe fatto perdere forza al testo. E ti dico di più, che questo, se può poi anche spinto umorismo o grottesco, se vuoi, o caratterizzazione, grandi caratteri degli attori, fa passare dei temi, come dire, cioè, secondo me si è molto più cattivi quando si è alla Tim Burton, ecco, tanto per, cioè, chiaramente la differenza sono enorme tra me e Tim Burton, chiaramente, ma diciamo come riferimento, quando c'è quell'ironia, quella cattiveria, che hai sempre un umorismo di fondo, secondo me diventa molto più acida, la materia è molto più acida, questa è la mia impressione. E allora ricordiamo la prima nazionale dello spettacolo Un nemico del popolo al Teatro Argentina dal 20 marzo al 28 aprile. Un saluto e un ringraziamento al regista e attore Massimo Popolizio. Un abbraccio, in bocca al lupo e complimenti. Grazie, grazie a voi e dell'affetto. Grazie. Ciao. Con Pino Carbone, coautore dello spettacolo Muhammad Ali, che sarà in scena a Roma, al Piccolo Eliseo, dal 4 al 18 aprile 2019. Pino, ben trovato. Ciao, ben trovati voi. Ciao. Te lo racconti? Sì, intanto racconto come è nata l'idea, nel senso che in realtà è stato l'attore Francesco Di Leva che aveva questo desiderio. Io amo quando sono gli attori a proporre un progetto, vuol dire che partono da un desiderio forte. Mi ha proposto questa idea di lavorare su Muhammad Ali, a quel punto io sono rivolto a una drammaturga con la quale collaboro, che è Linda Dalisi, e insieme abbiamo, come dire, in qualche modo indagato di questo personaggio enorme, che sapevamo enorme, ma insomma abbiamo scoperto che lo era molto più di quanto pensassimo, praticamente è in tutta la storia proprio del mondo, almeno dagli anni 50 in poi, da un punto di vista sportivo sicuramente, ma anche da un punto di vista sicuramente politico, umano, geografico, e nel mondo dell'arte, ma soprattutto nel mondo della comunicazione, è stato proprio uno sperimentatore dell'arte della comunicazione. E questo ci è sembrato chiaramente subito una buona scintilla da cui partire. L'idea poi è stata quella di coinvolgere diversi artisti importantissimi, insomma, che avevamo bisogno del punto di vista, della prospettiva, di altre prospettive che guardassero questo grande personaggio, tra cui Mimmo Palladino, che ha firmato la scenografia, Ursula Pattina e i costumi, Marco Messina e Sasha Ricci, le 99 poste alle musiche, Cesare Accetta le luci, insomma artisti che hanno dato il loro contributo, proprio la loro visione, la loro prospettiva. Lo spettacolo è una sorta di one man show, uno spettacolo che noi amiamo dire più che su Muhammad Ali, uno spettacolo alla Muhammad Ali, è sempre diretto al pubblico, ci aprono questioni e queste questioni vengono sviscerate in scena, una su tutte quella razziale, che è stata sulla sua grande battaglia, quella dei diritti razziali, e quindi su quella, insomma, in qualche modo ci siamo soffermati, andando a scavare un po' il suo rapporto con Malcolm X, ispiratore, insomma, lui stesso ispiratore delle Black Panther e poi del movimento pacifista contro il Vietnam, contro la guerra in Vietnam, insomma, quindi fondamentalmente si aprono delle questioni che purtroppo sono ancora attuali, sono ancora urgenti, sono ancora necessarie. Quindi lo spettacolo procede attraverso delle questioni aperte e lui ne discute direttamente con il pubblico, in maniera frontale, in maniera diretta. Questa è un po' la struttura. Io sono in scena con l'attore, in scena in quanto regista che aiuta l'attore, e chiaramente, insomma, il rimando è evidente a quale figura posso di volta in volta rappresentare. Sono sia il suo allenatore, sia il suo sparring partner, sono appunto il suo ispiratore politico, il pensiero, insomma lui aveva delle persone attorno a lui, insomma, che indicavano in qualche modo la strada, e lui con la sua grande forza, insomma, si faceva portavoce di questioni, di istanze molto forti, molto importanti. Hai detto che studiando il personaggio ti sei reso conto della enormità che ha rappresentato nella storia internazionale. Ecco, quali sono gli aspetti che più ti hanno sorpreso, che più ti hanno impressionato? guarda, proprio appunto il suo stare dentro delle vestenze delle quali lui fece questo grande gesto di non partire per il Vietnam, il che gli comportò il ritiro, quindi gli ritirarono il titolo di campione del mondo e anche la licenza per combattere per 5 anni, oltre ad essere stato insomma arrestato per reticenza alla leva, ma lui si immolò sapendo di dare un grande segnale, essendo un personaggio estremamente popolare. Poi un altro aspetto molto interessante è il suo rapporto con l'infanzia, con i bambini. Lui andava in giro, sempre, aveva sempre in tasca dei trucchetti di magia che faceva ai bambini per strada, insomma, quindi aveva un grande rapporto con l'infanzia. In un'intervista famosa gli chiesero di poter dire qualcosa di importante al mondo e lui colse l'occasione per dire ai bambini non mangiate molti dolci, se mangiate dolci dopo lavatevi i denti perché è importante, insomma colse quell'occasione per lanciare questo messaggio ai bambini, quindi era un grande, anche un grande clown, sapeva che insomma rivolgendosi ai bambini si riusciva a rivolgersi al mondo. Il suo essere in prima linea sulle battaglie importanti, insomma questo è sicuramente l'aspetto più forte, più immediato, più evidente di questo grandissimo personaggio. Il suo rapporto con la comunità afroamericana? Lui ripeto, è stato un tanto ispiratore con Malcolm X, insomma, delle Black Panther. Lui ha cambiato il suo nome da Cassius Clay a Muhammad Ali, perché Cassius Clay era il cognome del padrone, del nonno, insomma, era uno schiavo a cui fu dato, insomma, il cognome del padrone del nonno, quindi lui decise di cambiare addirittura il suo nome proprio per dare continuamente segnali, insomma, che la comunità afroamericana doveva affrancarsi da una dipendenza, insomma, da quelli che erano stati i loro vecchi aguzzini. Quindi lui era molto amato dalla comunità afroamericana, insomma, che si è speso in prima persona per i diritti razziali, appunto, quindi come dire era in prima linea, quindi insomma aveva un grande rapporto. Famoso fu lui volle assolutamente fare quell'incontro importantissimo con Foreman, volle assolutamente farlo in Africa, dicendo io voglio combattere questo incontro importante, insomma, nella mia terra, che era l'Africa, anche se essendo lui insomma nato in America, ma insomma riteneva che l'Africa fosse la sua terra d'origine, quindi il suo paese. Che percorso sta facendo lo spettacolo? Lo spettacolo che ha debuttato a Napoli Teatro Festival, poi è stato sempre a Napoli, aperto la stagione del Teatro Nuovo, ora farà insomma un po' di date in Campania, da Salerno, Benevento e poi Roma, per poi fermarsi per un po', insomma, ma in realtà ricomincerà l'anno prossimo con giro per l'Italia. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, c'è la pagina diciamo di Ente Teatro Cronaca, che è la produzione, è quella più aggiornata sugli spostamenti di questo spettacolo. E allora ricordiamo Muhammad Ali a Roma, al Piccolo Eliseo, dal 4 al 18 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al coautore Pino Carbone. Un abbraccio, in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Grazie mille, grazie veramente tanto, è sempre un piacere enorme, enorme. Grazie veramente. L'autrice, attrice Agnese Fallongo sullo spettacolo Letizia va alla guerra, la suora, la sposa e la puttana a Roma, al Teatro della Cometa, dal 9 al 14 aprile 2019. Agnese, ben trovata. Buongiorno a tutti. Raccontaci di questo lavoro. Sì, allora è un lavoro al quale sono molto, molto legata, perché deriva anche dal punto di vista della scrittura, da delle interviste che ho fatto sia delle suore sia delle donne che hanno lavorato insomma in quelle che erano le case chiuse, e quindi c'è anche un lavoro di documentazione storica. È uno spettacolo al femminile, ma in realtà come dire, parla anche dell'amore, no? Che può esserci tra un uomo e una donna, tra una madre e una figlia, e quindi va a toccare un po' tutte le sfaccettature dei rapporti umani. parla dell'evoluzione appunto della figura della donna, quindi dai primi del Novecento fino agli anni 70, parla di donne molto diverse tra di loro, no? Uno dice che cosa può avere in comune una sposa siciliana vissuta nei primi del Novecento durante la Prima Guerra Mondiale, una donna che si ritroverà a suo malgrado a lavorare nelle case chiuse in una Roma comunque legata alla seconda, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, e una suora veneta. In realtà sono tre donne che sembrano lontane e invece sono molto vicine tutte e tre, e si scoprirà durante lo spettacolo che sono legate da un fil rouge e che in realtà poi, come dire, anche delle professioni diverse, però come dire, l'animo è il medesimo, e quindi a seconda poi di quello che la vita ci riserva, a volte anche per delle casualità, quindi delle persone che si ritrovano ad essere vittime poi di alcune situazioni, in realtà l'animo, come dire, le accomuna in ogni caso. Da dove viene fuori il progetto? Allora, il progetto viene fuori da un laboratorio che io feci su appunto la Prima Guerra Mondiale, quindi sulle Croce Rossine, le portatrici di gerle, perché purtroppo c'erano pochissima documentazione rispetto al Sud Italia, e invece il maggior numero di morti, di caduti in guerra durante la Prima Guerra Mondiale è stato proprio in Sicilia. Però si trovano solamente fonti, siccome il fronte era austro-ungarico, quindi di donne del nord, anche perché c'era pure l'analfabetismo, quindi ovviamente alcune non sapevano nemmeno scrivere. Per questo ho voluto fare in modo che questa sposa fosse siciliana, proprio per dare voce a tutte quelle donne che rimasero a casa, eppure comunque hanno fatto la storia, e quindi diciamo da questo primo monologo che scrissi su questa sposa siciliana che si ritroverà a fare poi la portatrice di gerle sul fronte austro-ungarico, ho pensato a tre vite che si uniscono, quindi come dire dal macro mondo della guerra si passa poi a parlare delle singole vite delle persone. Poi mi affascinò tantissimo anche appunto tutto quello che era il discorso delle case chiuse, quindi la legge Merlin, anche perché la prostituzione esiste da sempre, e quindi comunque è giusto, secondo me è una tematica che va affrontata e che mi incuriosiva, ecco. E mi sono ispirata anche al film D'amore e d'anarchia di Lina Wertmüller, quindi un po' tutto quell'immaginario lì anni 40, e poi appunto unire un po' quello che poteva essere il sacro e il profano, quindi anche il mondo invece religioso, come poteva approcciarsi a questa tematica qua, ecco. Hai detto che hai realizzato una serie di interviste, che sensazioni ne hai ricavato? Allora, io dico, parto sempre da un presupposto quando scrivo, che la vita ha più fantasia di noi. Se riusciamo ad essere dei bravi osservatori, come dire, le storie più interessanti già sono vicine a noi, ma basta guardare nella famiglia di ognuno, no? Io semplicemente, come dire, avevo iniziato facendo delle interviste a mio nonno, a mia nonna, a dei familiari che non vedevo da tempo, e già, come dire, scavando nella propria famiglia si scoprono tante cose, no? E poi quindi ho allargato un po' questa cosa, e devo dire che è stato toccante, emozionante, anche perché per fare un personaggio non bisogna mai essere generici, no? E quindi riuscire a prendere poi veramente uno sguardo di una persona che ha vissuto quella cosa, come può essere un dialetto, come può essere veramente, come dire, un dettaglio, mi ha aiutato tantissimo sia per la documentazione storica, perché poi un conto è leggere sui libri, un conto è trovarsi di fronte a una persona che, come dire, si è trovata in quell'ambiente là. Per la Prima Guerra Mondiale ovviamente è stato più complicato, perché mi sono rifatta a quello che erano gli scritti delle Croce Rossine e dei soldati caduti in guerra. Invece per quello che riguarda la Seconda Guerra Mondiale è stato molto più semplice, perché c'è la generazione, quella che è dei nostri nonni, insomma, io sono degli anni 80, e invece ancora è vivo questo ricordo della guerra, e devo dire che è stato toccante. È stato veramente toccante, quindi anche l'idea nel mio piccolo di poter dare voce a queste persone, perché io credo molto nella validità di quello che è la tradizione orale, che purtroppo si sta perdendo, invece se ascoltassimo di più, ci sono tante persone che hanno ancora tanto da raccontare, e quindi mi piace prendere spunto anche dalla realtà, ecco, se così vogliamo dire. Come riferimenti web ho visto che c'è una pagina Facebook proprio sullo spettacolo. Sì, allora diciamo la pagina è Agnese Tiziano 2.0, perché col mio collega col quale abbiamo cominciato a collaborare proprio per questo spettacolo qui di Letizia Vallaguerra è nato un bellissimo sodalizio artistico e quindi adesso siamo già, abbiamo fatto un altro spettacolo che si chiama Terra Noscia, scalata in musica lungo lo stivale, e poi adesso stiamo già scrivendo il terzo, che devo dire che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e quindi continuiamo questa coppia che ricorda un po' Polvere di Stelle, no? Un po' alla Monica Vitti e Alberto Sordi, e quindi un po' quel retrogusto lì, no? Di una Roma ormai insomma andata, però ancora viva, secondo me. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Volevo solo dire, regia di Adriano Evangelisti con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, per salutare anche i miei collaboratori. Certo. Va bene. Un abbraccio, a presto. Grazie, ciao. L'autrice, attrice Agnese Fallongo sullo spettacolo Letizia Vallaguerra, la suora, la sposa e la puttana, a Roma, al Teatro della Cometa, dal 9 al 14 aprile 2019. Con l'autore, attore Davide Grillo per parlare del suo spettacolo Il Tempo Stinge, che sarà a Genova all'Out Out 357 il prossimo 10 aprile e a Roma a Spintile Labs 18 aprile 2019. Davide, ben trovato. Ben trovati voi, che bello tornare a Radio Onda Rossa. Ci racconti di questo sforzo, di questo lavoro? Sì, dunque, praticamente Il Tempo Stinge, appunto, è una, lo dice la frase, è una constatazione, cioè noi non miglioriamo, ecco, almeno io non miglioro. Tutt'altro, ecco, mi sembra che dall'infanzia, che è il momento più alto, poi comincia una lunga discesa, e insomma questo diciamo è il solo assunto dello spettacolo. Per il resto sono tutti i monologhi che sono nati per il Varietà Sgombro, e diciamo una sorta di raccolta, che hanno più o meno indirettamente o direttamente a che fare con il tempo che passa, e appunto i problemi legati a questo fenomeno. Diciamo a 9 anni uno raggiunge il suo top. Esatto, dopodiché è una lunga discesa. Più o meno ripida. Esatto, no, poi io ieri pensavo che è anche un titolo che mi salva da un certo punto di vista, perché uno dice, ma sai che questo spettacolo era più brutto di quello prima? E uno può dire, no, ma è proprio il senso dello spettacolo, cioè peggioriamo, per cui faccio finta che fosse fatto apposta, capito? Senti, allora, dicevi, metto insieme i vari tuoi monologhi che hai già portato in scena, il collante è questo concetto del tempo che ci peggiora? Sì, più o meno, insomma, sono tutti legati al tempo. C'è uno, per esempio, sull'eutanasia, che mi pare che l'ho fatto anche quello da voi una volta, altri invece appunto sui tempi che passi prima di dimenticarsi di qualcuno, il tempo come altre variabili del tempo che non vorrei spoilerare, e insomma molti appunto sono stati presentati come prova a sgombro, che è il posto in cui noi un po' proviamo i pezzi nuovi, e per il resto ce ne sono degli altri inediti. Allora, sono molto contento di andare a Spinta in Lab, perché hanno un auditorium bellissimo, sì. E poi una rassegna molto bella, stanno curando, insomma sono molto contento, e Genova sono degli altri compagni amati, non vedevo l'ora di ritornare da loro con una cosa nuova e che adesso posso farlo. Mettendo insieme questi monologhi, un po' è nello stile stand-up comedy? Sì, in parte, in realtà è un po' più, insomma, sono dei racconti, non so se sono di stand-up, io direi che sono dei racconti, dei monologhi più di teatro tragicomico, diciamo, un po' della tradizione un po' comica italiana. Okay. Cioè, mi piacerebbe richiamarmi, diciamo, ecco, con tutta l'umiltà, mi piacerebbe richiamarmi più a quella tradizione di teatro comico italiano, poi non so se sono anche di stand-up, ben venga. Ma insomma. Ti piace anche l'interazione con il pubblico durante le tue performance? Sì, molto, cerco di cogliere quello che succede al momento, ovviamente sono sempre dei regali, qualsiasi tipo di errore sia mio che qualsiasi cosa che succede nel pubblico è sempre un regalo da poter giocare, appunto il bello è anche questo rispetto al cinema o quando ti leggi un libro che oltre a te c'è, e a quello che ti sei preparato da prima, c'è un'altra persona, e c'è il pubblico a cui ti rivolgi, c'è quello che succede tra i due, per cui sono, è un gioco a tre, insomma, c'è tu, lui il pubblico e la relazione che si crea. Queste due date rappresentano le prime due di una sorta di tour? Sì, a me piacerebbe poi continuarlo l'anno che viene, diciamo, queste, poi farò delle date estive che ancora sto definendo un po' dove, però insomma è più poi per l'anno prossimo, perché ormai dalla stagione ci siamo quasi, insomma. Okay. Però sì, mi piacerebbe poi presentarlo. Ci lasci anche tutti i tuoi riferimenti web? Sì, dunque, vabbè, c'è il mio profilo Facebook che è Davide Grillo, la pagina di Sgombro dove comunque mandiamo, la pagina Facebook di Sgombro dove mandiamo tutte le comunicazioni, ma soprattutto c'è la pagina di Stendhal Comedy che io continuo a usare comunque, che è il mio vecchio spettacolo, è come stand up, però Stendhal è lo scrittore, in cui io mando comunque tutte le comunicazioni anche per Il Tempo Stinge. Immagino che tu abbia creato anche l'evento per queste due date. Sì, l'evento di Spin Time in realtà sta per uscire, adesso okay. Devo mettermi d'accordo con i ragazzi perché fanno una grafica un po' diversa, giustamente perché da quella della rassegna, per cui me lo mandano a breve. Ho visto la foto della locandina per l'appuntamento di Genova, lì già il tuo pieno periodo di decadenza. Sì, l'hanno fatta, io penso perché giustamente hanno fatto le copie da appendere e le hanno fatte in bianco e nero, quindi c'è stata questa ulteriore variazione autunnale, diciamo, però va bene, cioè comunque assecondiamo un deterioramento già interiore, va bene, benissimo così. Senti, allora ricordiamo l'appuntamento con Il Tempo Stinge, il nuovo spettacolo di Davide Grillo, a Genova Out 357 il 10 aprile e a Roma allo Spin Time Labs 18 aprile 2019. Davide, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede presto. Un abbraccio grandissimi. Grazie mille. Ciao. Un abbraccio grande. Ciao. Primario obietto. Sono 15 giorni, Zerbino, che questa sta ricoverata qui e non si vede l'alba. Sì, professore. Sì, appunto. Questa a letto 4. Non possiamo lasciarla così. Si potrebbe fare una interruzione di gravidanza? Soppressione di una vita umana nel grembo materno, si dice. Sì, no, sì. Zerbino, no. Non si può fare. No. Mi verrebbero tutti addosso. Sì. I colleghi, gli infermieri, sì. Il partito. Poi, chi li sì. sente? Ma alla fine, anche la madre. La madre. Zerbino, sì. Io sono tanti anni che lavoro qui e mi ricordo tutto. Sì. Una volta una donna era ricoverata qui. Nelle stesse condizioni di questa letto 4. Utero dilatato, sacco in vagina. Presto si romperà. Il ginecologo era suo zio carnale. La fece alzare e le disse: zitta figlia, zitta, alzati, fidati di me che sono un medico. Ci morite qui tu e tuo figlio. Lei non capiva, era confusa, però glielo diceva suo zio. Si è alzata, ha fatto due passi e trac! E mio bambino! Zio, mi avete ammazzato il mio bambino! Il bambino le era caduto per terra. Madonna Santa, Zerbino le urla. Quando si è accorta che il bambino era ancora vivo, ha cercato di graffiare lo zio. Sembrava una pazza! Sì. Poi noi le abbiamo fatto il raschiamento, ma lei non ci ha parlato per un anno con il medico che gli aveva detto di alzarsi. Ed era suo zio, carnale. Figurati se possiamo fare qualcosa noi. No, professore, però si ricorda, professore? Mi ricordo tutto. Ecco, a giugno abbiamo mandato a casa una nostra ostetrica, la Marisa. Non me lo ricordo. Beh, incinta delle stesse condizioni di questa letto 4. Utero dilatato, sacco in vagina. Presto si romperà. Sì, le abbiamo detto, cara, tu capisci, qui non si può fare. Prendi queste candelette, vai a casa, pensaci e decidi tu stessa. Le candelette? tutte. Quelle che provocano l'aborto. Soppressione di una vita umana, sì, nel grembo materno, sì, si dice. Sì. Zarbino, sì, io lo so cosa sono le candelette, sì, ma per le candelette c'è un registro? Sì, sì, professore, ma noi abbiamo fatto finta che si fosse rotta una scatola e le abbiamo fatte uscire così. Poi lei è tornata con le contrazioni e il fetino mezzo fuori e così abbiamo risolto. Bravi, bravi, grazie, grazie, Zarbino, bravi. Grazie. Però quella, sì, era una dell'ospedale, una, sì, che capisce, questa ha letto quattro, ma chi la conosce? No, no, effettivamente nessuno, professore, però io so che c'è un ospedale religioso dove chiamano una collega dell'ospedale laico, fanno dimettere le pazienti contro la volontà dei sanitari, così se ne occupa la collega. Bravo Zerbino, cretino! Oh, oh. L'ospedale laico pubblico dov'è? Dov'è? L'ospedale laico pubblico siamo noi, non possiamo dove? Chiamare nessuno! No, no, nessuno, nessuno, professore, ma allora, professore, ma cosa facciamo? Te lo dico io che sono il professore, cosa facciamo? Non facciamo niente. Professore, una domanda. Certo, Zerbino, dimmi. La soppressione potrebbe essere presa in considerazione qualora la letto 4 si sentisse male? Non si sente male, Zerbino. No, no, ma nel caso, diciamo, nel caso le venisse la febbre? Non ha la febbre. Ma nel caso le venisse un'emorragia? Ma quale emorragia, Zerbino? No, ma mettiamo il caso che ci fosse un rischio imminente per la vita. Non c'è nessun rischio, Zerbino. Ma se fosse un rischio di setticemia? Setticemia? Ma che siamo al cinema che a uno gli viene la setticemia? Zerbino. Sì. Ma tu vuoi farmi perdere questo posto da primario? No, no, professore. Perché posso proprio io, primario, obiettore, con tutti i contatti che ho, sì, con la mia posizione nella società scientifica, sì, andare a caparmi questa grana, sì, di fare un aborto terapeutico, sì, dopo una fecondazione assistita, sì, con due gemelli vivi? No, professore. Bene, ci vediamo nel mio studio. Con Laura Nardi e Valentina Valsania per parlare dello spettacolo Io Obietto, che sarà a Diritti Albelli, al Teatro Belli, venerdì 12 aprile 2019. Ben trovate. Grazie. Grazie. Ciao. Cos'è questo, certo, spettacolo? Allora, Io Obietto è un testo scritto, uno spettacolo scritto da Elisabetta Canitano, che è una ginecologa attivista, una delle, diciamo, poche ormai abortiste che negli ospedali pubblici, perché come tu sai, nonostante l'aborto sia possibile attraverso la legge 194, la maggior parte dei ginecologi negli ospedali pubblici sono obiettori, per cui le donne sono spesso costrette, anche quando si trovano in situazioni di rischio di vita, quindi a dover praticare un aborto terapeutico, quindi non un aborto per libera scelta, ma un aborto necessario perché ci sono delle deformazioni o dei problemi di salute che possono portare alla mancata sopravvivenza della donna, sono costretta ad andare all'estero perché in Italia è sempre più difficile abortire. Abbiamo dati che ci parlano di regioni in cui il più del 90% dei ginecologi sono obiettori, anche nello stesso Lazio, sì, mi sembra che sì, l'82-83% sì, dei medici sono obiettori, e questo crea un problema. Allora ritorniamo al testo, questa è, diciamo, la premessa. Il testo di Io Obietto è ispirato al caso di Valentina Milluzzo. Chi era Valentina Milluzzo? Valentina Milluzzo era una ragazza giovane che per il desiderio di restare incinta ha praticato, insomma, la fecondazione assistita e alla 19ª settimana è stata ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania perché aveva il sacco in vagina. Sono termini tecnici, quindi un rischio abortivo. I feti nel suo grembo erano troppo piccoli, non sarebbero riusciti a sopravvivere, bisognava praticare un aborto terapeutico, non è stato fatto. E perché non è stato fatto? Perché tutti i medici erano obiettori. E Valentina, dopo 2 settimane di ricovero inutile, perché è stata 2 settimane ricoverata, sdraiata, con le gambe alzate, senza nessun intervento, è morta di sepsi, cioè di setticemia. Per i bambini ovviamente non ci sarebbe stato nulla da fare, perché tu sai che dopo a 19 settimane non c'è proprio possibilità di sopravvivenza. La legge 194 che cosa dice? Che nel caso di aborto, cioè nel caso di rischio della vita della donna, anche il medico obiettore è costretto ad intervenire, e questo è il dramma di Valentina. Invece i medici, quello che hanno detto, testimonianza dei genitori, potete vedere i video di Salvatore Milluzzo, che è il padre di Valentina, su internet, e scoprì, cioè lui stesso afferma questo, che il medico, l'unico medico di guardia che c'era, perché erano tutti ad un congresso, non ha fatto altro che ripetere: io sono obiettore, finché c'è il battito fetale, il battito dei bambini, noi non possiamo intervenire. Quindi il mancato intervento ha fatto sì che ci fosse la sepsi, e la sepsi, se non interviene in 2 o 3 ore, muore. E così è morta Valentina. Quando Elisabetta Canitano e altri ginecologi della Laica, che è la rete dei medici non obiettori, hanno letto il caso, hanno saputo del decesso di Valentina, hanno subito capito che si trattava di un problema legato all'obiezione di coscienza, per cui sono entrati in contatti per le donne con la famiglia. Elisa ha deciso di scrivere questo testo, che l'associazione Causa poi ha portato in scena con la regia di Amandio Pignero, con me, Valentina, Cristian Giammarini e Chiara David. Ho detto tutto. Arriveremo adesso all'appuntamento al sì. Belli. A te, Valentina, chiedo come ti sei avvicinata al testo e al lavoro. Beh, è stato molto forte, perché il testo è forte, lo è lo spettacolo, e è abbastanza impressionante pensare che appunto al giorno d'oggi si possa morire di setticemia, no? Come dice una di queste scene di cui sentirete, insomma. Eppure questo avviene, e fa ancora più impressione sapere che le ragioni morali e religiose sono solo una parte, neanche poi forse la più grande, perché ci sono altre ragioni sotto, di convenienza, di carriera, di opportunità politica, di denari, semplice vigliaccheria dei medici che non si assumono una responsabilità per non contrastare il primario, per non rischiare una denuncia, perché la denuncia comporta che non si può più avere un'assicurazione. Insomma, ci sono tutta una serie complessissima di ragioni che possono portare a una tragedia come questa, e io nello spettacolo interpreto tutti questi ginecologi per cui proprio, e anche questo povero Zerbino, l'assistente del primario, che prova a insinuare questo dubbio con una che la donna si possa salvare, che si possa eventualmente anche salvare in fondo praticando questa interruzione di gravidanza, e che però naturalmente, essendo un sottoposto, essendo uno Zerbino a seguito del primario, naturalmente la sua efficacia è assolutamente nulla, ecco, in questa situazione, fino a poi il medico di guardia alla fine, che è quello che non si assume, che definitivamente non si assume la responsabilità e che determina, insomma, quello che accade. Allora, lo spettacolo andrà in scena non previsto, perché vi è capitato di sostituire un altro spettacolo nella rassegna Diritti al Belli, dove peraltro tu già eri andata in scena. Sì, avevo fatto Va tutto bene, che era uno spettacolo sui cambiamenti climatici. È saltato uno spettacolo, quindi ci hanno chiamato e ci hanno detto: venite a fare Io Obietto, e noi abbiamo accettato la molto sfida. Appropriato. È appropriato, una rassegna sui però diritti. Allora abbiamo, esatto, però abbiamo deciso questa volta di non fare solo lo spettacolo, ma di creare un doppio appuntamento. Sì. Cioè alle 7 ci sarà un incontro capitanato da Simona Ammerata, che è una delle attiviste di Non Una di Meno, e Non Una di Meno Roma, che ha aderito all'iniziativa, e Elisabetta Canitano. E l'argomento che tratteranno è: da Verona a Roma, contro l'attacco ai diritti per la difesa e il superamento della legge 194 per l'autodeterminazione. Questo è il tema dell'incontro. E poi alle 9 invece ci sarà lo spettacolo vero e proprio. Io l'appuntamento lo consiglio, perché quello che è successo a Verona dimostra che c'è veramente una forza oscurantista e ostile che considera le donne un mezzo per la riproduzione, e che possono essere per questo sacrificabili senza il diritto alla libertà di scelta, ma anche alla propria sopravvivenza. cioè come se Verona avesse creato uno spartiacque. Il problema c'era anche prima, da Verona poi con l'appoggio governativo, perché poi questa è stata la grande differenza, che il governo può aver tolto anche il patrocinio, ma se ci vanno i ministri, quello ha un appoggio governativo, da Verona la battaglia si fa molto più aspra, amara, e sembra di ricordare i racconti dell'Ancella. Non so se l'avete vista questa fiction, però è... No, però vabbè, viene dal libro, però nella fiction ci sono tutte, cioè, queste donne costrette solo alla riproduzione, stuprate solo con l'idea riproduttiva, perché la riproduzione è la cosa più importante, e nei flashback fa impressione perché si vedono i movimenti femministi che provano a lottare e a ribellarsi a un sistema sempre più oscurantista e misogino, ma poi non ci riescono, insomma, ed è stato scritto negli anni 70 questo libro. Ecco, speriamo questa visione catastrofista ovviamente non si concretizza, però... Cosa aggiungiamo? Aggiungiamo questa frase di Simone de Beauvoir, che è profetica e molto pertinente. Non dimenticare mai che una crisi politica, economica o religiosa sarà sufficiente per mettere in discussione i diritti delle donne. Questi diritti non saranno mai acquisiti. Dovrai rimanere vigile per tutta la vita. Simone de Beauvoir. In chiusura ripetiamo i due orari degli appuntamenti? Sì, 19 incontro pubblico, 21 spettacolo. Diritti Teatro al Belli, Belli al Teatro Belli. Il 12 aprile, venerdì. Perfetto. Io obietto. Allora un saluto e un ringraziamento a Laura Nardi e Valentina Valsaglia. Grazie. Con l'autore e attore Daniele Parisi per il nuovo appuntamento di Sgombro, il varietà tragicomico numero 26, uno speciale questa volta, sempre a Roma, al Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 12 aprile 2019. Daniele, ben trovato. Eccoci, eccoci. Approfitto tra l'altro per dire una cosa, cioè vale a dire, siamo al Cinema Palazzo con Sgombro, e qui non a caso faccio io l'intervista, perché lo stesso giorno esattamente in contemporanea faccio io il mio spettacolo al Quarticciolo. E allora uno dice, ma come, scusa, ma che fare? Fare una pubblicità contro? Io dico una cosa molto semplice: noi siamo legati, no? E quindi indipendentemente da andare a vedere me Sgombro e tutto quanto, l'importante è che il progetto e la squadra funzioni e si muova. Io propongo una cosa: alle 9 inizia Daniele Parisi al Teatro Quarticciolo, dura un'oretta, prendete la macchina, andate a San Lorenzo e alle 10.40 inizia Sgombro. Direi che è perfetto, una giornata così, una serata diversa. E si fa serata proprio. E si fa serata, ma c'è proprio con 15 euro massimo, uno vede due spettacoli, dice vabbè, ho capito, ma lo sbattimento, un po' di vita ragazzi, via. Allora, a questo punto facciamo la serata che hai organizzato. Partiamo dal Quarticciolo. Quarticciolo, torna in scena Ewoye, che è il mio ultimo spettacolo, che tu hai visto tra l'altro lo scorso anno al Teatro Vascello, quindi torna in scena per due serate, il 12 e il 13, e quindi si riparte da lì, insomma, per andare poi di nuovo in un teatro che sta qui a Roma, perché lo spettacolo l'ho portato un po' in giro durante quest'anno, e quindi tornare dopo un anno a Roma è una grande cosa, perché è il risultato anche di un'evoluzione sul palco. Spettacolo comico, one man show, sono da solo, ed è il mio quinto spettacolo. Mentre invece... Diamo qualche altra indicazione su cosa vedremo in scena. Viene annunciata l'Apocalisse, c'è un uomo che si fa bandiera di popolo, che arriva e grida al popolo che sta finendo il mondo, viene annunciata un'apocalisse assolutamente... farlocca e surreale, e a un certo punto però, mentre succede tutto questo, un uomo va sotto la finestra della propria amata e la chiama, e lei non risponde, e dal palazzo si affacciano degli esseri umani che commentano non solo la sua condizione, ma anche la propria, di fronte alla fine. Quindi viene preso in considerazione il concetto di fine, sia dell'umanità che di un amore. E quindi, se è vero che come faceva Dante Alighieri, no? Metteva Beatrice in paradiso, no? Una volta stabilito che ci sia Dio, no? Allora in paradiso c'è l'amore, e se non c'è Dio, se Dio non risponde, allora non risponde neanche l'amore, allora forse l'amore neanche c'è, forse è un'invenzione, no? È questo che si pone lo spettacolo. spettacolo, sempre in chiave assolutamente tragica e comica allo stesso tempo. E poi prendiamo la macchina, o a qualsiasi altro mezzo. Poi sì, insomma, dunque, allora qui sono le nove. Allora, prima fai un panino, chiaramente, no? Okay. Poi fai il solo. Ti vedi lo spettacolo, alle 10:10 stai fuori perché lo spettacolo dura un'ora. Prendi la macchina, il motorino, quello che è, alle 10:30 arrivi al Cinema Palazzo e trovi il 26esimo, credo, appuntamento di Sgombro, che ormai va avanti dal terzo anno, ed è un appuntamento per noi come sempre consueto. Ci sono diversi ospiti, come sempre, insomma, l'organico è al completo. Noi stiamo portando avanti un progetto che, come tu sai, insomma, è in un certo senso rivoluzionario, perché noi portiamo in scena uno show che è praticamente teatrale e che affronta la comicità dal punto di vista assolutamente comico, ma però allontanandosi da quella che è, insomma, il linguaggio televisivo meramente di intrattenimento. Quindi ecco, questa è un po' la sfida di Sgombro di questi anni, cioè portare un linguaggio teatrale all'interno di una cornice che è solitamente legata all'intrattenimento, quindi il comico può essere messo a teatro, assolutamente sì. Ci sarà Giovan Bartolo Botta, okay, Inano Egidio, Ilaria Graziano e Francesco Forni, che sono gli ospiti, Davide Grillo, Claudio Morici, Gioia Salvatori, Ivan Talarico e Danilo Ruggero, anche lui è un altro ospite. Ok. Per chi invece vive stabilmente al Quarticciolo e non si sposta proprio da lì, e però quella sera decide di andare al nuovo Cinema Palazzo, si trova davanti a Sgombro. E tecnicamente spieghiamo come è formulato. Allora, chiaramente lo spettacolo è questo. Si inizia con una presentazione, il maestro delle cerimonie è il solito Ivan Talarico, che presenterà i vari numeri, perché siamo di fronte a uno spettacolo di varietà. Varietà nel senso che ogni artista ha il proprio stile e quindi ciascuna esibizione avrà più o meno la durata di 5, massimo 10 minuti, in cui ogni artista proporrà una parte del suo repertorio, che sia inedita, che sia di repertorio, ogni volta è uno spettacolo diverso. E quindi ci sono 10 persone, 8 persone, 9, dipende ogni volta in maniera diversa, che si incontrano insieme e mettono insieme uno spettacolo di varietà. Varietà nel senso appunto più largo del termine, perché Giovan Bartolo Botta è un poeta, no? In Inano Egidio sono degli artisti che teatrali, ma che utilizzano i pupazzi. Davide Grillo unisce la stand-up comedy con la filosofia, Claudio Morici è un narratore straordinario, Gioia Salvatori è un'attrice, ma allo stesso tempo una comica, ma allo stesso tempo una poetessa. Ivan Talarico è un cantautore, ma che mette insieme il teatro, quindi fa teatro canzone. Quindi c'è una varietà assoluta e il pubblico che viene a vedere questo spettacolo si trova davanti non soltanto uno spettacolo, ma 10 mondi che si uniscono e che sono diversi, ma allo stesso tempo uniti, perché l'intento è lo stesso, la poetica in qualche modo ci unisce. Ricapitoliamo a questo punto. Daniele Parisi lo vedremo da solo in scena con lo spettacolo EUOE a Roma, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, alle ore 21, venerdì 12 aprile 2019. E anche il 13. Ok, 12 e 13, perfetto. E intorno alle 22:30 al nuovo Cinema Palazzo, il numero 26 di Sgombro, il varietà tragicomico, con lo speciale 8 anni di occupazione del nuovo Cinema Palazzo. Diciamo anche qualcosa in merito. Assolutamente, questa è una giornata appunto particolare, perché il Cinema Palazzo festeggia l'ottavo, credo, anno, sì, di occupazione. Noi siamo molto vicini al Cinema Palazzo perché grazie al cinema sono nate tantissime cose. Io ho sperimentato personalmente i primi miei spettacoli teatrali, ho visto nascere e crescere quel posto negli anni, è nato dentro anche l'esperienza di Sgombro, e noi tutti siamo legati a questo luogo che crea un po' un'alternativa culturale all'interno di un quartiere che, insomma, un po' fatica, diciamo, ecco. Ed è un'occasione per tutti quanti di unirsi in un luogo che è una forma di resistenza non soltanto politica, ma anche culturale, e che è quello che facciamo noi, la nostra è una resistenza culturale. e quindi siamo molto contenti di essere vicini al Cinema Palazzo in questa ottava primavera, ecco. Sì, esatto. Allora Daniele, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede da qualche parte. Benissimo. Ciao. A presto. Ciao. Con Duccio Camerini che firma la trasposizione e la interpretazione dello spettacolo Alla ricerca del tempo perduto da Marcel Proust a Roma, all'Off of Theater dal 12 al 14 aprile 2019. Duccio, ben trovato. Grazie, benvenuti a tutti voi. Un curioso gesto, presentacelo. Innanzitutto avevo voglia di inseguire un senso proustiano che non fosse quello che tutti si fanno nella mente, pensiamo al lusso, pensiamo ai grandi nobili, pensiamo al decadentismo, pensiamo quindi alle carrozze, ai cilindri, a tutto quel mondo lì. E invece Proust è un autore molto segreto, molto, molto violento anche, e in questo secondo me è molto fratello di Joyce, è molto, molto apparentato nella ricerca dell'io, nella difesa dell'io, nell'io che si perde nei marasmi della vita, e poi, come nel caso del personaggio Marcel, che è il protagonista della recherche, riesce proprio in zona Cesarini, quando c'ha proprio per morire da un punto di vista affettivo e fisico, riesce a risorgere e a dare una svolta imprevista alla sua vita, proprio quando non se l'aspettava più. E proprio grazie a tutto il dolore che ha provato, grazie a tutte le avventure dure che ha dovuto vivere. Quindi mi sembrava insomma, non è che devo difendere io Proust, devo spiegare io la grandezza di questo autore, però diciamo che è un autore che molto spesso è guardato soprattutto per le sue digressioni, cioè quel famosissimo aneddoto quando lui scrisse il primo dei 7 libri della recherche, lo portò a un editore, l'editore gli rispose con una lettera molto piccata: non capisco perché devo pubblicare un libro dove il protagonista impiega 30 pagine ad addormentarsi. Ed è probabilmente questo quello che tutti noi ricordiamo di Proust, anche chi lo ama molto, cioè queste incredibili digressioni, queste descrizioni interminabili e meravigliose. Però qui c'era l'idea di recuperare un senso proprio di storia e anche di caratteri, perché i suoi caratteri, il bestiario che lui mette in scena, i personaggi che lui mette in scena sono straordinari, cioè dal barone di Charlus ad Albertin a Morel ai Verdurin, è veramente un bestiario che incredibilmente ci ricorda molto il mondo di oggi, la cialtronaggine del mondo di oggi, la confusione, l'ambiguità, e non solo sessuale, l'ambiguità, come posso dire, filosofica di questa nostra epoca. E mi sembra che non sia cambiato nulla da quando lui l'ha scritto. La messa in scena mi spiegavi che è un po' sperimentale. Diciamo che quando abbiamo cominciato, io ho proposto questa cosa a Pino Di Butua, che è un regista che conosco da diverso tempo, e volevo, appunto, l'ho proposto a lui perché volevo qualcosa di assolutamente non in linea con il decadentismo, Debussy, tutto quel mondo lì di fine 800, inizio 900, proprio quello che non volevo. Quindi ci siamo messi subito alla ricerca di un sistema immagini, musicale e anche di racconto completamente opposto a quello che la gente si aspetta da Proust, ripeto, tutte le svenevolezze, la Madeleine, tutte queste cose qui che secondo me poi hanno fatto anche il male un po' di Proust, cioè c'è l'equivoco, chi non lo conosce bene si ferma alla Madeleine e pensa che Proust sia un autore decadente come il nostro Gozzano, non è proprio così. no, ripeto, è un autore che invece ha una grandissima parentela con Joyce, e insomma ha scritto una delle più grandi architetture letterarie della nostra, ma no, della nostra epoca, direi di sempre, direi di sempre. Quindi le immagini hanno un peso abbastanza importante rispetto anche alla parola. Assolutamente sì, siamo proprio in tandem, siamo in tandem, loro sono più di me perché loro sono due schermi e io sono da solo, e quindi procediamo insieme, camminiamo insieme. Camminiamo insieme lungo tutto lo spettacolo. Lo spettacolo che, tengo a dire, di questo sono contento, anche se è stato molto faticoso arrivare a fare la drammaturgia di una cosa così amata, perché io ovviamente è uno dei libri della mia vita, e questo dover rinunciare a così tanto quello che si ama per inserirlo in una drammaturgia è stato difficile, però poi alla fine abbiamo scelto un canale, una strada, una narrativa che è quella che ci sembrava più forte tra le tantissime che lui propone, ovviamente, e abbiamo seguito quella, e il nostro spettacolo, sono fiero di dire, che dura un'ora. In un'ora noi facciamo la research, o almeno diamo così un assaggio. Un distillato. Esatto, beh sì, è proprio un distillato molto molto parco, ma secondo me forse può invogliare qualcuno ad interessarsi a quel problema. Bene, allora ricordiamo Alla ricerca del tempo perduto con in scena Duccio Camerini all'Off of Theater a Roma dal 12 al 14 aprile 2019. Duccio, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Grazie, grazie a tutti voi. Ciao. Con Enrico Falaschi, regista dello spettacolo L'Eccidio, che sarà in prima nazionale a Fucecchio, al Nuovo Teatro Pacini, il 13 aprile 2019. Ben trovato Enrico. Grazie, grazie Federico. Ci parli un po' di questo lavoro? Sì, con grande piacere, anche perché è un lavoro a cui io e tutti i miei colleghi del Teatrino dei Fondi teniamo particolarmente, sia perché è un progetto artistico che noi riteniamo stimolante ed interessante anche proprio dal punto di vista estetico, ma soprattutto perché affronta un tema a noi molto vicino. Nel 2019 ricorrerà il 75° anniversario dell'eccidio del Padule di Fucecchio, un eccidio che ha impiegato decenni a essere ricostruito nelle sue vicende, e che per tanto tempo è stato considerato non come un'unica grande strage che ha coinvolto purtroppo ben 174 vittime, delle quali tantissimi bambini, donne e anziani, ma veniva vissuta come frammentata, ogni borgo, ogni comune per se stesso, ecco, quindi anche solo per collegare queste singole azioni di assassinio commesse dall'esercito nazista il giorno del 23 agosto del 1944 è stato impiegato molto tempo, e Riccardo Cardellicchio nel 74, quindi ben 30 anni dopo l'eccidio, fu inviato dal giornale Il Tirreno, per cui lui lavorava, a fare un'inchiesta giornalistica, e a forza, diciamo, di testimonianze, di colloqui con gli abitanti del luogo, riuscì in un faticosissimo lavoro di ricostruzione di queste vicende. Ne nacque un libro che si intitolava e si intitola L'estate del 44, in cui sono riportate tutte queste testimonianze. 20 anni più tardi, Andrea Mancini, che è colui che ha curato l'adattamento teatrale, prendendo queste cronache, queste testimonianze dell'estate del 44 raccolte da Cardellicchio, le unisce a un componimento poetico di Enzo Fabiani, che si intitola Lamentazione 44, uscito per le edizioni di Erba d'Arno, e intrecciandole ne nacque questa drammaturgia, quest'opera teatrale intitolata L'Eccidio, che quindi si compone di testimonianze, di una parte narrativa e di una parte poetica, lirica. Per quanto riguarda la vicenda storica, immagino, come nelle altre stragi nazifasciste del periodo, non solo in quella zona, ci fu anche la collaborazione dei fascisti locali. Sì, purtroppo sì, perché di fatto questa è stata una strage completamente di civili, venivano ricercati partigiani, ma non ve ne erano. Allora in qualche modo fu deciso di colpire gli affetti dei partigiani che magari erano sugli Appennini nascosti e che da cui portavano avanti la loro opera di resistenza, e andarono a colpire proprio i civili, le famiglie che invece abitavano nel Padule e che non erano colpevoli di niente praticamente. E il Padule è un luogo bellissimo, però è anche abbastanza impervio perché è fatto di canali che impedivano anche l'accesso ai mezzi corazzati dell'esercito nazista, per cui per muoversi all'interno del Padule hanno necessariamente avuto bisogno della collaborazione di chi quel territorio lo conosceva bene, e chi glielo poteva dare erano gli italiani appartenenti alla Repubblica di Salò, insomma ai repubblichini fascisti. Si tratta allora di una prima nazionale. Che percorso state organizzando poi per lo spettacolo? Lo spettacolo avrà 3 anteprime nelle mattine del 10, 11 e 12 di aprile, rivolte alle scuole, perché è importante rivolgersi a un ampio spettro di pubblici, per cui quello dei ragazzi, dei giovani, deve inevitabilmente essere un pubblico anche privilegiato per questo spettacolo, perché sono ragazzi giovanissimi, nati oramai tutti nel nuovo millennio e che non necessariamente sono a conoscenza di quanto accaduto a metà del XX secolo, anche se a pochi chilometri di distanza, magari dalle loro abitazioni. Dopodiché il 13, il sabato 13, la sera ci sarà il debutto ufficiale all'interno della stagione di prosa del Nuovo Teatro Pacini, che con questo spettacolo concluderà la sua quinta edizione. Okay. Un'altra curiosità, tornando alla vicenda storica, oltre alla ricostruzione c'è stato anche un risvolto giudiziario? Purtroppo molto blando, perché proprio per essere stata letta sempre in modo frammentato, non ha mai avuto il riconoscimento per tanti anni, per tanti decenni, un riconoscimento di strage. Cioè, lo ha acquisito successivamente, ora non vorrei dire un'inesattezza, però dopo il 94, quindi dopo 50 anni, allorché scadendo il segreto di Stato sugli archivi dell'epoca, gli studiosi sono potuti entrare in possesso di quello che era contenuto nel tristemente famoso armadio della vergogna. Da lì sono lentamente iniziati anche delle questioni giudiziali che hanno seguito un iter, hanno portato ad alcuni simbolici riconoscimenti da parte anche della Germania nei confronti del nostro paese, ma cose minime. Se si pensa che intere famiglie sono state trucidate, se si pensa anche ai sopravvissuti, che magari di una famiglia composta da 8, 9, 10 persone ne è rimasto uno, che vita può aver avuto poi? Certo. In seguito un trauma del genere, avendo perso tutti gli affetti, anche avendo perso tutto quello che poteva essere collegato anche al sostentamento, per cui no, io mi sento di dire umanamente non vi è stato nessun tipo di risarcimento. Ci parli anche un po' della compagnia del Teatrino dei Fondi? Sì, volentieri. Il Teatrino dei Fondi è una compagnia che ha sede a San Miniato da sempre, è nata nel 1993, per cui ha compiuto l'anno scorso 25 anni di attività. Dal 2009 io sono direttore artistico della compagnia e si divide in diverse linee. Da una parte c'è la parte di gestione, quindi gestiamo il Teatro Comunale di San Miniato, il Quarantana e il nuovo Teatro Bacini di Bucecchio, dove organizziamo le stagioni teatrali, attività formative, formazione del pubblico e quant'altro. In più abbiamo il lavoro strettamente di produzione artistica come compagnia, gli spettacoli nascono nei nostri teatri, poi durante le stagioni circuitano un po' in tutta Italia e ci dividiamo tra la produzione del teatro per i ragazzi, per le nuove generazioni e altre produzioni legate all'impegno civile o alla drammaturgia contemporanea. Fanno parte tantissime persone del Teatro dei Fondi, siamo circa 20-25 collaboratori. Nello spettacolo partecipano in veste di interpreti tre bravissimi attori formatisi nelle principali accademie nazionali, dalla Silvio D'Amico ad Anico Pepe, e sono Alberto Gherardi, Marta Paganelli e Giorgio Vierda. In più, anche se non è fisicamente in scena, c'è un quarto attore fondamentale che è Alessio Trillini, che praticamente disegna dal vivo e i disegni vengono videoproiettati in scena e si relazionano e al lavoro attoriale e al resto della scenografia, per cui una cosa anche particolare, il cui linguaggio da un lato ci avvicina più ai giorni nostri che a quelli, diciamo, oggetto della narrazione drammaturgica. In più, sempre nello spettacolo sono coinvolti due scenografi, Marco Sacchetti, Angelo Italiano, una costumista, Chiara Fontanelli, un tecnico fonico, Nicola Sbaggi, insomma, e poi tutto lo staff organizzativo, l'ufficio stampa e quant'altro. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti internet? Sì, allora, la compagnia ha il proprio sito che è www.teatrinodeifondi.it, mentre per quanto riguarda proprio il Teatro Pacini ha anche in questo caso il proprio sito che è www.nuovoteatropacini.it. Ricordiamo la prima nazionale dello spettacolo L'Eccidio, una produzione Teatrino dei Fondi a Fucecchio, Nuovo Teatro Pacini, sabato 13 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Enrico Falaschi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, un saluto agli ascoltatori. Con l'autore, interprete Claudio Morici per parlare del suo Racconti da Camera a Roma, Baracca e Burattini, sabato 13 aprile 2019. Claudio, ben trovato. Ciao, ciao. Dici un po' di questo nuovo appuntamento. No, Baracca e Burattini, che prima era Via Libera, quindi ex Via Libera, è un posto dove, diciamo, ho un rapporto particolare perché ho iniziato a fare i miei primi libri proprio lì, ormai 5-6 anni fa, questo spazio, così che dici tutti gli anni si va, poi è al Quadraro, diciamo, è uno spazio dove vanno tante persone, forse uno dei posti migliori a Roma per fare i propri spettacoli. È un posto veramente particolare, cioè noi di Sgombro ci siamo passati tutti, ma anche tanti altri performer romani. E è un posto anche che ha bisogno di essere sostenuto, perché oltre ai problemi che hanno tutti i posti dove si fanno queste cose oggi a Roma, c'è il fatto che gli rubano dentro. No, questa non la sapevo. Cioè, praticamente negli ultimi 20 giorni sono entrati là, no, gli hanno rubato una guerra a poveri, si sono fatti una tripletta in 10 giorni, sono fatti il Teatro Studio 1 e poi sono fatti i Baracchi Burattini e si sono fatti il ristorante, quello del girasole, quello al Quadraro dove servono ai tavoli dei ragazzi che hanno la sindrome di Down, quindi si sono fatti tutti e tre, immagini. L'altro c'è un evento di finanziamento con le baracche curative, ormai sono cose che entrano nella normalità. Sì. E va bene. Farò i miei racconti brevi, alcuni diciamo che già faccio da vari anni, altri nuovi, e vediamo un po' poi che cosa esce poi. Sono queste storielle da 3-5 minuti che mi piace pensare come se fossero dei koan, no? Come se fossero delle storie metaforiche che attraverso la risata ti spingono a mandare in beat parte del sistema cognitivo e quindi ad aggrapparti a delle interpretazioni della realtà più alte, diciamo. Questa è la speranza, diciamo. Ci sono dei temi ricorrenti? Ma se ci penso, sì, cioè ci penso sempre dopo, quando li vedo magari tutti insieme, che li ho fatti, mi viene in mente che prima erano più della metà, erano tutte litigate di coppia. Ma io mi sono reso conto, ma cazzo, ma sono l'80% di me, sono tutte coppie che litigano, si scannano, diciamo, fanno cose assurde tra di loro. Poi c'è il tema di Roma, ecco, forse ultimamente questo mi riguarda di più nei miei testi brevi, cioè, ovvero c'è un pezzo, per esempio, in cui parlo della fuga dai quartieri radical chic della città, no? Siamo nella Paola San Lorenzo, sì. sulla scia, quasi è quasi una cover di Remo Remotti, e poi sono pezzi nuovi sulle multe. Questo è interessante. Pezzi nuovi sulle multe, che ci fanno un sacco di multe. Questa è una città piena di multe, poi ce ne potrebbero fare anche di più, volendo. Però ecco, la multa mi interessa moltissimo ultimamente, perché me ne fanno tante, mi arrabbio, poi magari ho torto io, me ne fanno alcune ingiuste, altre ingiuste non me le fanno. Io faccio in modo che me le facciano, ma soprattutto mi chiedo come posso vivere con tutte queste multe, e poi piano piano penso alla multa che ci facciamo a noi stessi, ecco, che è la multa più importante di tutti, che forse quella, a volte ci facciamo delle multe la mattina quando ci svegliamo e cominciamo a pensare delle cose, delle cose che magari ci affossano, magari abbiamo dei pensieri che ci fanno perdere energie, capite? Quelle cose, le musiche ci facciamo stessi, che altro di quelle che ci stanno fuori, cioè, dovremmo imparare magari a non farci di più. Questo titolo già lo avevi usato? Racconti da camera? È il titolo delle prime volte che facevo i raccontini tutti insieme. Ho pensato che lo facevo per anche il posto dove l'ho fatto la prima volta in vita mia, e allora volevo chiamarli con lo stesso nome, ma semplicemente è vicino il tiro al senso dei racconti brevi che faccio dalla prima volta che li avevo fatti, e quindi vale anche adesso, diciamo, potrei utilizzarlo sempre con i racconti che cambiano. In una dimensione intima, insomma. Esatto, sì. Raccolta. Sì, piccoli, che cambiano anche in base al pubblico che c'è davanti. Ogni volta, no? Perché questo, diciamo, mi rendo conto quando li faccio che a seconda di chi è lo spettatore, posso cambiare, sono le cose, diciamo, per esempio quando li faccio poi il Roma, se faccio il pezzo me ne vado via da San Lorenzo, non è che funziona tantissimo, trattandosi di un quartiere di Roma, quando lo faccio a Milano, una volta l'ho fatto, la gente mi guarda e dice vabbè. Ma per fortuna c'era qualcuno che ha studiato a Roma e poi è andato a lavorare a Milano, però ecco, lì per esempio non lo devo fare. Poi per questo tipo di performance il pubblico è fondamentale, sempre fondamentale in tutte le mie cose, per tutti è fondamentale. Nel caso mio mi sento come se mentre leggo queste storielle inizio a farlo insieme al pubblico, perché magari il pubblico ride, ha delle reazioni che fanno sì che cambia moltissimo il modo in cui lo faccio. Prendo i tempi della lettura in base alla realtà del pubblico, li facciamo proprio insieme. Sì. Questi pezzi. Immagino che in questa primavera tu abbia una serie di date oltre a questa, al Baracca e Buretti. In realtà aprile diciamo, sto facendo tutt'altra cosa. Ah, sto okay. scrivendo uno spettacolo teatrale per una persona, diciamo, commissionato. Per la prima volta, non mi era mai successo, commissionato, quindi è abbastanza impegnativo. Cioè, e poi a fine maggio me ne rivado in giro, vado okay. a Milano, mi faccio tutto il giro, diciamo, nei locali, piccoli teatri, però io ricomincio da fine maggio. Okay. Adesso faccio quest'altra cosa e faccio bene a farlo, perché ho fatto veramente tante date da settembre fino a oggi, forse anche troppo, mi sono stressato tantissimo, cioè io in fondo sono una persona introversa. E allora, per saperne di più, ci lasci i tuoi riferimenti internet. Sì, ho una pagina dove ci stanno tutti i video, tutti gli eventi, che si chiama Morici Performance and Reading SRL, oppure c'è il profilo che è Claudio Morici e Claudio Morici 2. Perfetto, e noi ricordiamo l'appuntamento con Racconti da Camera a Roma, Baracca e Burattini, sabato 13 aprile 2019. Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Ciao, un abbraccio a te. Grazie. Ciao. Ciao. Con l'autrice e attrice Antonella Questa per parlare dello spettacolo Svergognata, che sarà in scena ad Arzoli al Teatro La Fenice sabato 13 aprile 2019. Antonella, ben trovata. Ciao Federico, ben trovati a tutti voi, sempre un piacere. Raccontaci di questo lavoro. Un lavoro nato nel 2014 a seguito di una mia curiosità qualche anno prima, suscitata dall'iscrizione a Instagram, che oggi ovviamente sanno tutti che cos'è e tutti lo usano. Ai tempi, insomma, mi era molto incuriosito questa pubblicazione di foto, anche foto un po' provocatorie, osé, era molto libero, non c'era ancora Facebook e lo censurava, quindi veramente si poteva vedere in pubblico qualsiasi tipo di foto, e soprattutto mi colpivano le foto di donne non star, diciamo, di spettacolo o influencer, donne normalissime che si fotografavano in pose molto provocanti, sexy, si intuiva che fossero magari anche nude sotto le lenzuole eccetera, e mi incuriosiva moltissimo ancora di più i commenti che venivano fatti a queste foto, con uomini che si lanciavano anche in "io ti sposo", "io ti amo", cioè cose veramente un po' esagerate. E così ho cominciato un pochino a riflettere su questa cosa dello sguardo che cerchiamo di approvazione degli altri, e sono andata a scrivere poi una storia che parte da una signora che all'apparenza, diciamo, ha riempito tutti i doveri che la società le richiede, si è sposata, ha i figli, il marito ha una bella carriera, una bella casa eccetera eccetera, però un giorno scopre appunto sul cellulare del marito degli scambi con alcune svergognate. Siccome sta per festeggiare, insomma, l'anniversario, un importantissimo anniversario di matrimonio, le crolla il mondo addosso. Come faccio a recuperare lo sguardo di mio marito su di me? E tra consigli di amiche, estetiste, madre, giudicante e quant'altro, invece sarà proprio una vera svergognata ad aiutarla a recuperare lo sguardo su se stessa, che è quello che ci manca e, diciamo, in questi ultimi 5 anni noto che ci manca sempre di più, ecco, lo sguardo su noi stessi e la conoscenza poi anche di noi. Come hai pensato l'allestimento? Come sempre io lavoro sia scrivendo ma anche lavorando molto con il corpo in scena, cioè il corpo è un altro tipo di scrittura, e per questo lavoro con Magali Bull, una mia storica amica, insomma coreografa, con la quale ormai lavoro da quasi 10 anni, è in tutti i miei spettacoli, nel senso che lei crea le coreografie e quindi i movimenti di scena, mi aiuta anche nel lavoro del corpo per, diciamo, interpretare i vari personaggi. Io, insomma, per chi ha visto già alcuni miei spettacoli, io proprio prediligo una messa in scena molto essenziale, in questo caso un parallelepipedo rosso in scena, che muovo molto e che diventa diverse cose, oggetti, ambienti. E poi in questo lavoro in particolare tantissimo è stato usato il corpo, anche per raccontare gli stati d'animo dei protagonisti, insomma dei vari personaggi che sono diversi, e poi anche perché il corpo è una parte centrale in questo lavoro, è proprio lo sguardo, la conoscenza anche del corpo femminile, secondo me è proprio uno dei punti di partenza sul quale riflettere, anche per evitare poi successivamente una violenza psicologica innanzitutto, anche poi ovviamente fisica. Ecco, in questa dimensione social su cosa hai voluto puntare l'attenzione? Sullo sguardo, come ti dicevo prima, nel senso che poi io quindi andando a scavare, io poi appunto non solo osservo, studio e poi anche intervisto, incontro le persone, ho deciso di entrare in contatto ovviamente con queste uomini e donne, intendiamoci, perché anche gli uomini avevano foto osè, anche molto buffe, in ambienti improbabili, comunque con copriletti veramente di pessimo gusto, insomma eccetera eccetera. Però io avevo diciamo buttato giù una specie di questionario anonimo, li contattavo o via commento e poi lasciavo una mail e mi scrivevano eccetera, e alcuni io li ho anche incontrati, quindi mi hanno aperto i loro cellulari, quindi io poi ho visto video, foto, cioè, sono andata proprio a curiosare diciamo nell'intimità di molte persone, e mi sono proprio resa conto di questo bisogno di approvazione che continuiamo a ricercare. Inizialmente vabbè parte dalla famiglia, per questo uno dei protagonisti è la madre, poi estremamente giudicante, e avrà una svolta insospettabile alla fine, come spesso accade nella vita reale, ed è uno sguardo proprio ossessivo del chiedere sto bene così, ti piaccio, sono stata brava, sono un bravo, non so, manager, sono la persona migliore così, però senza mai chiederci, tutte queste persone tra l'altro me lo confermavano, se a loro stava bene una determinata situazione, una determinata insomma, azione, fare una cosa, telefonare, insomma, anche cose stupide, piccoline. E tante persone, per esempio, in particolare donne, che avevano subito tra l'altro operazioni difficili come l'asportazione del seno per dei tumori, quindi sono situazioni veramente drammatiche, con Instagram, col fatto di pubblicarsi in un certo modo eccetera, i commenti, i like permettevano a loro di ritrovare un rapporto col proprio corpo, cioè tutto passava sempre attraverso l'altro e mai attraverso noi stessi, mai attraverso al guardarci, al sentirci, all'ascoltarci. Questa cosa mi ha molto colpito, poi effettivamente è il, diciamo, lo snodo di tutto lo spettacolo. Ci lasci tutti i riferimenti web su questo spettacolo in particolare e anche sul tuo lavoro in generale? Beh, volentierissimo, innanzitutto il sito che è sempre aggiornato, sul quale poi si possono trovare approfondimenti, schede, un piccolo promo video, ed è antonellacuesta.it. Mi trovate anche ovviamente su Facebook con una pagina pubblica, su Instagram ovviamente, visto che siamo partiti di lì, mi ero iscritta, quindi da allora, insomma dal 2011 sono lì, quindi sono anche molto attiva e molto divertente, Twitter, e per cui insomma socialmente mi trovate con molta molta facilità. C'è anche l'evento Facebook per questo appuntamento, ricordiamo lo spettacolo Svergognata ad Arzoli al Teatro La Fenice, sabato 13 aprile 2019, un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Antonella Questa. Un abbraccio, grazie. In bocca al lupo e a prestissimo. Credi, un abbraccio immenso a voi, grazie mille, ciao. Con Valentina Martino Ghiglia e Francesca Romana Miceli Picardi per parlare della rassegna Diritti al Belli a Roma al Teatro Belli dal 19 marzo al 14 aprile 2019. Ben trovate. Ciao. Ciao Fede. Allora, una domanda per una. Cominciamo con presentare questa rassegna. Di cosa si tratta? La rassegna è una rassegna che noi abbiamo fortemente voluto sui diritti che in questo momento ci sembra siano vagamente sotto scacco. quindi il teatro con la cultura e il cinema, insomma, con la cultura noi pensiamo fortemente che possano essere ribaditi e per fare anche una battaglia per i diritti attraverso la cultura, il teatro e il cinema. Questo è. Come avete scelto i lavori ospitati? Allora, ti aggiungo che c'è un diritto nel diritto, che è quello di continuare a mandare in scena le persone, ovvero siccome in teatro si lavora poco e male, credo sia auspicabile ancora oggi riuscire a creare una rassegna dove si aiutano e si supportano, appunto questo per rispondere a come avete scelto i lavori, si supportano le compagnie, perché ormai sai, produzioni, cose come un tempo, insomma è una favola vecchia, lo sappiamo benissimo come sta andando il teatro e ad oggi due persone che si mettono a fare una rassegna per dare un diritto, che già si tratta di diritti civili, dare il diritto ai lavoratori dello spettacolo di continuare a salire sul palco e a fare il loro lavoro, quindi un diritto nel diritto. Come li abbiamo scelti? Li abbiamo scelti secondo facendoci mandare il materiale, ragionando su una tela di ragno. Innanzitutto pensando al pubblico, cosa oggi la gente vuole vedere, perché sai, tante volte tu magari mandi in scena qualcosa che piace a te ma magari non piacerà a qualcun altro, e noi abbiamo ragionato su qualcosa che potesse innanzitutto interessare e far parlare loro, gli attori, per le coscienze degli altri. E i lavori sono in tutto 9 e 4 giornate di cinema, quindi abbiamo ragionato più che altro sui diritti, no? Quali diritti volevamo portare avanti? Quelli che ci sembrano, però doveva durare un anno, 365 di diritti, giorni di diritti calpestati. E quindi questo, abbiamo ragionato sui diritti, quelli un po' più importanti. Ovvero? I diritti più importanti sono quei diritti che portiamo qui, vanno dal diritto al lavoro, al diritto di un ambiente sano, contro il buco nell'ozono e l'inquinamento atmosferico, ce ne stanno due di spettacoli su questo tema, l'acqua pulita e poi c'è uno spettacolo, per esempio il primo che ci sarà sulla vita di Franca Viola, che è stata la prima donna che ha rifiutato il matrimonio riparatore, e poi non so, cioè, ci sono anche i diritti LGBT, Q, RST, Q, N, Z, con lo spettacolo I Love Alice, Love I, con Paola Pavese e Ludovica Modugno, insomma veramente è molto vario come panorama, non ci siamo dedicati soltanto a una nicchia, ma proprio abbiamo tentato di portare a 360 gradi tutti i diritti. Lavori provenienti un po' da tutta Italia? Guarda, di base abbiamo scelto delle compagnie che non sono solo romane, ma hanno base a Roma, che vengono da fuori, mi pare, a parte che Paolo Saraceno, che comunque è siciliano e comunque porta lavori del sud, poi c'è Emilio Nigro che viene da giù, dalla Calabria, e bene o male gli altri sono di Roma. Come saranno articolate le giornate? Allora, le giornate, guarda, a questo punto c'è il calendario davanti, fondamentalmente si va in scena dal giovedì alla domenica, il mercoledì ovviamente c'è la rassegna cinematografica che va dalle 15 alle 20:30 e con diversi tipi di film. Dunque, gli spettacoli sono sempre alle 21, okay. Anche la domenica, perché abbiamo ragionato sul fatto, sì, il traffico, il varco, Roma, capitale europea, e quindi, no, che ci aiuta sempre tanto e ci agevola con le strade, allora abbiamo deciso di fare il serale per tutti, sempre, ed è sempre alle 21 lo spettacolo. A questo punto ci date anche tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Assolutamente, tutti i riferimenti web li trovate sulla pagina Facebook della rassegna Diritti a Belli, oppure direttamente sul sito del Teatro Belli. Bene. Poi, se volete i nostri numeri di telefono per altre cose, poi ditecelo, che noi tranquillamente ne siamo a disposizione per spettacoli, cose, se ci volete andiamo per sagre, per paesi, per qualunque cosa. Allora, ricordiamo la rassegna Diritti al Belli a Roma, al Teatro Belli, dal 19 marzo al 14 aprile 2019. Un attimo, che volevo aggiungere una cosa fondamentale. Noi facciamo questa rassegna col sostegno della Regione Lazio, il patrocinio del Primo Municipio Roma Centro e il patrocinio della LiduOnlus, che è la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, e l'aiuto di Radio Rock, che ci aiuta con la pubblicità e con un sostegno proprio reale. Questo era doveroso dirlo, ecco. E allora, un saluto e un ringraziamento alle curatrici Valentina Martino Ghiglia e Francesca Romana Miceli Picardi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. E ti aspettiamo ovviamente martedì, che c'è l'inaugurazione della rassegna alle 19:30, il 19. Perfetto, un abbraccio. Festone con DJ Ci vediamo set. lì. Va bene, ci vediamo martedì. Ciao. Con Cecilia Bernabei, una delle curatrici del progetto Do It Festival L'Artigogolo, scrittori per il teatro, rassegna per la promozione del teatro contemporaneo a Roma, all'Arma Teatro, dal 4 al 13 aprile 2019. Cecilia, ben trovata. Grazie, grazie mille per l'ospitalità, veramente. Dunque, volevamo un po' parlare del nostro progetto, già ci conoscete, vi ringraziamo sempre di ospitarci presso la vostra radio. Il programma quest'anno sembrerebbe meno corposo di quello degli altri anni, in realtà il Do It Festival ha cambiato formula semplicemente, perché è diventato biennale, quindi quest'anno non c'è il festival con la premiazione dello spettacolo, ma c'è una rassegna di tre spettacoli che circuitano intorno a entrambi i concorsi alla casa editrice di Pione Art, che ha anche una collana teatrale. Come è organizzato? Allora, ci saranno tre spettacoli a partire dal 4 aprile, quindi il 4 e 5 aprile ci sarà uno spettacolo incentrato su una rivisitazione del mito Pancrazio, la libertà di avere paura di Alma Gaddario, con Simone Migliorini, una produzione del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra. E seguirà poi uno spettacolo molto particolare perché si tratta di un recital tratto da un reale diario di guerra, il cui testo è stato pubblicato proprio dalla casa editrice Chipione Art, e per finire la compagnia Polispaten, che è stata premiata l'anno scorso al Duit Festival, ma che torna con un nuovo spettacolo, Maestre d'amore, tratto dall'Ars Amatoria di Ovidio. E il 13 aprile, infine, la consueta cerimonia di premiazione del concorso L'Artigogolo, scrittori per il teatro, e la presentazione anche del libro della giovanissima Alessia Giovanna Matrisciano, vincitrice dell'edizione dell'anno scorso. Contemporaneamente ci saranno diversi ospiti, tutti autori della casa editrice Chipione Arte, che leggeranno alcuni brani delle loro opere, e un rinfresco. L'ingresso il 13 aprile è un ingresso libero, per cui tutti possono partecipare, così possiamo promuovere e diffondere soprattutto quello che è il nostro interesse, cioè il connubio tra la parola scritta e la messa in scena, perché il teatro ricomincia a essere anche un testo letterario, non solo un testo per la scena. Noi abbiamo sottolineato spesso l'importanza proprio della parola scenica. È chiaro che il testo teatrale viene scritto per essere messo in scena, però è molto bello anche leggere i testi teatrali. La scelta di questi lavori che presentate? È soprattutto legata al festival, al concorso di scrittura. Alma Daddario è una nostra autrice, ha pubblicato con noi uno splendido volume, Oltre la quarta parete, edito appunto da Chipionati, che contiene anche Pancrazio. Nicoletta Grieco ha pubblicato il libro, il romanzo La promessa e la memoria con la casa editrice Chipione Art, e la compagnia Polispaten ha vinto la scorsa edizione del Duit Festival. Quindi sono tutti spettacoli in qualche modo legati al nostro lavoro, anche perché noi lavoriamo molto con la casa editrice Chipione Art di Adele Costanzo e Paolo Zarrilli nasce proprio da una costola dell'omonima associazione, però ci siamo separati, diciamo così, in casa, perché è stata una separazione solo, come dire, legale, solo per questioni appunto legate al marchio. Siamo rimasti sempre insieme a collaborare, quindi l'associazione opera da quasi 6 anni, la casa editrice da 5, e lo sforzo coraggioso di Adele Costanzo è stato quello di promuovere una collana per il teatro contemporaneo, che non è una cosa facile oggigiorno, dir la verità, sono molte poche le case editrici che pubblicano teatro contemporaneo, proprio perché non si tratta di un prodotto commerciale, ahimè, spiace dirlo, ma insomma è così. Ci racconti anche dell'evoluzione del Do It Festival? Certamente, allora il Do It Festival nasce nel 2015, abbiamo cambiato due volte spazio teatrale, adesso abbiamo trovato una sede stabile nell'Arma Teatro e ringraziamo naturalmente la direttrice artistica Daria Veronese per l'ospitalità che sempre ci offre, perché altrimenti il festival, se non avesse un punto di riferimento, un teatro, non potrebbe sopravvivere, e nasce proprio per promuovere la drammaturgia contemporanea, sia nelle giovani compagnie, per giovani non intendiamo solo giovani anagraficamente, ma intendiamo quelle compagnie sconosciute che realizzano prodotti comunque di qualità rispetto a quello che è il teatro ufficiale e che trovano spesso poco spazio all'interno del teatro. Ci riferiamo soprattutto alle periferie non solo romane, ma anche a quelle delle altre parti d'Italia, perché al Do It Festival spesso vengono compagnie anche provenienti da tutte le regioni d'Italia. Noi abbiamo ospitato compagnie provenienti addirittura da un'isola della Sardegna, e quindi voglio dire, ci fa molto piacere che a Roma non ci siano solo spettacoli romani. Lo stesso vale per l'Artigogolo, che è il concorso di scrittura drammaturgica, che ha tre sezioni attualmente: quella dei drammaturghi esordienti, cioè di chi non ha mai praticato il palco e di chi vorrebbe scrivere per il teatro, quella dei drammaturghi navigati, quindi chi ha già esperienza teatrale, e quella per gli studenti delle scuole medie e superiori. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet? Allora, sicuramente, innanzitutto potete visitare il sito della casa editrice www.chipioneartedizioni.eu, il sito dell'associazione www.chipioneart.it, la nostra pagina Facebook, e contattare l'Arma Teatro per venire a vedere gli spettacoli. Allora, ricordiamo il progetto Do It Festival all'Artigogolo, scrittori per il teatro, rassegna per la promozione del teatro contemporaneo. A Roma, Arma Teatro, dal 4 al 13 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Cecilia Bernabei, una delle curatrici. Cecilia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie infinite, grazie. Ed eccoci, l'agenda della settimana teatrale con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Un po' di cose le abbiamo ascoltate per bocca dei diretti interessati e adesso tu ci dirai tutto quello che non abbiamo contemplato. Tutto. Tu, qualunque cosa io vi dico, bisogna poi andare a verificare se quello che dico ha una sua validità, ma questo non lo potete sapere se non tramite le mie parole, parolacce. Allora, buon pomeriggio a tutti, prima di tutto, cosa ci andiamo a vedere a teatro questa settimana? Or dunque, andiamoli a vedere. Prima di tutto vediamo un po', ti porto al teatro nuovo di Via Giulia, ormai nuovo manco più troppo, però insomma è un teatro di recente apertura, si tratta dell'Opposteatro che il 12-14 aprile presenta l'adattamento teatrale dell'intera opera di Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto. Una roba del genere la prepara Duccio Camerini, che veste gli abiti dell'autore e dei personaggi che gli ruotano attorno, nelle scenografie digitali che sono firmate da un video designer che si chiama Stefano Di Budo, e mentre lo spettacolo è diretto da Pino Di Budo, ovvero sia il reggente della compagnia storica del teatro di Fara Sabina, che insomma del terzo teatro di Fara Sabina. Pino Di Budo gira il mondo con le sue composizioni, e andremo a vedere però questa riscrittura per il teatro, una riduzione direi di grande capolavoro firmato Teatro Potra, c'è la casa dei racconti, ovvero sia Alla ricerca del tempo perduto, 12-14 di aprile. Poi Teatro Studio 1, perché 11-14 aprile invece, da giovedì a domenica, ce ne andremo a vedere i miei soldi, non i miei proprio precisamente di Simone Nebbia, ma i miei, quelli che ci viene a portare Mario Migliucci insieme ad Adriano Saleri, che scrivono questo lavoro ispirato all'omonimo di Jean-Claude Carrière, con quattro attori in scena ed è una metafora un po' grottesca della fragilità dell'arte nell'epoca della crisi, una commedia sul rapporto proprio con i soldi, con il denaro, all'interno dell'universo familiare e professionale dei protagonisti. Andremo a vedere questo lavoro al Teatro Studio 1, 11-14 aprile, I miei soldi. Poi, dal 9 di aprile, che a buon bisogno è oggi, andremo a vedere invece fino al 14 il lavoro con la regia di Jacopo Neri, Ululuna, ed è un testo che sarà al Teatro Anfitrione con in scena, udite udite, Stefano Benni e tutti gli attori e tanti altri attori, insomma, del Teatro Stabile di Roma. Però ci sarà Stefano Benni, per chi ama Stefano Benni è decisamente interessante come possibilità, ma ti dico inoltre che su Ululuna è un lavoro che ha a che vedere con un altro grande della letteratura, Julio Cortázar, che è scelto da Benni, insomma, per parlare un po' di questo tempo. Benni interpreta il vecchio Julio Cortázar, in Punto di morte tutte le storie, i personaggi che ha inventato finiranno sul palco con lui, e quindi chi ama Cortázar, chi ama Benni, appuntamento al Teatro Anfitrione con questo Ululuna. Poi a Villa Torlonia andiamo a vedere il 10 di aprile, che è domani, alle 19.30, questa rassegna Nostra Patria è il mondo intero, quella del Circolo Gianni Bosio, con una produzione, una firmata dal Centro Arti Integrate, la regia di Andrea Sant'Antonio, una disubbidienza straordinaria, la storia di Carlotta, tratto da Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante, dagli 11 anni in su, quindi ciò che andremo a vedere. È un lavoro appunto dedicato alle stragi antifasciste, perché la ragazza Carlotta studia a Berlino, una ragazza ariana, ma vede tanti bambini che hanno la stella gialla al petto e quindi si chiede di che cosa si tratti. 10 aprile 19.30 al Teatro di Villa Torlonia. Poi ancora ce ne andiamo, non c'è tantissimissimo questa settimana, vediamo un po', andiamo perché molte cose sono rimaste in scena dalle precedenti settimane. Lunedì 15 aprile, noi non, insomma, è un giorno che utilizziamo, alle ore 20 al Teatro Argentina, Nido di Vespe, uno spettacolo sul rastrellamento del Quadraro, il regista Daniele Miglio porta in scena questa testa di Simona Orlando sul rastrellamento del Quadraro, insomma, che è avvenuto nel 1944, all'opera di incomando di nazisti e agli ordini del superiore Kappler, che ben conosciamo in questa città. Soprattutto oggi, diciamo, con certi rigurgiti di fascismo, è molto importante andare a vedere questi lavori. Lunedì 15 aprile, Teatro Argentina. Poi direi che per quanto riguarda il Teatro Quarticciola, il Tiro Daniele Parisi, non ricordo, con di Daniele Parisi, 12 e 13 aprile, un lavoro che mi piace consigliare, perché insomma è un grande raccontatore Daniele Parisi, un attore di grande qualità, che in questo caso si va ad occupare della fine del mondo che incombe, questa deriva prossima, il caos che sta arrivando e si sente mormorare nelle strade, alla radio, e l'umanità cerca una soluzione, prova a darsi da fare. E molto ironicamente Daniele Parisi andrà a portare fuori queste nostre, la nostra struttura umana, tutte le nefandezze che la struttura umana può segnalare. Poi invece ti direi che per quanto riguarda Teatro di Roma, cioè Teatro Argentina e Teatro India, restano in scena Un nemico del popolo e Tango glaciale. Ancora per questa settimana Tango glaciale, Un nemico del popolo, andrà avanti fino a notte inoltrata, mentre invece per ciò che riguarda il Teatro India abbiamo anche un altro lavoro importante da segnalare. Avalanche, 14 aprile, Marco D'Agostin con Teresa Silva, alle ore 20, uno spettacolo di danza. Marco D'Agostin è un coreografo molto bravo, molto seguito. Due esseri umani protagonisti vengono osservati in un occhio ciclopico come antiche polveri conservate in un blocco di ghiaccio, atlanti che camminano all'alba di un nuovo pianeta. Questo un po' è l'immaginario che andremo a vedere con Avalanche, 14 aprile, ore 20, Teatro India. Vi segnalo, Federico, anche questa settimana sicuramente l'ospitata di Andrea Sattari, di Tete de Bois, a Spin-off, sabato 13 alle 21.30, me lo segnala sempre Emiliano Valente, che se ne sta occupando, in questo luogo va assolutamente frequentato e fatto vivere a Spend Time Labs, ulteriori due segnalazioni. Una è per Filippo Geri, che sarà al Teatro Brancaccino 11-21 aprile con questo lavoro diretto appunto da Filippo Geri, si chiama Ovvi Destini, con Giorgio Bellocchio, Anna Ferzetti, Daniela Marra e Vanessa Scalera, e un po' gli attori insomma di Filippo Geri, e dopo il successo della trilogia di Mezzanotte debutta con questo nuovo lavoro drammaturgico che appunto egli stesso dirige. Quattro attori, e andiamo un po' a ricordarlo, sono tre sorelle, Laura, Lucia, Costanza, hanno più o meno 35 anni, Costanza sono a sede rotelle per un incidente provocato dalla sorella, ma la responsabilità di questa sorella non è chiara a nessuno dei due. La conosce un essere esterno, un personaggio particolare e fuori dalla famiglia, che inizia a ricattare Laura, e in questo, di questa dinamica esce fuori la vicenda. Andiamo a vedere questo lavoro 11-21 aprile al Teatro Brancaccino per Filippo Gini, Ovvi Destini, mentre alle Carrozzerie Not questo weekend 12-13 aprile per andare a vedere lo studio coreografico di Dante Antonelli, La Noce sur le Dance Floor. Questo è il mio francese purtroppo, il lavoro performativo coreografico che inizia a studiare i movimenti scenici e che, insomma, la struttura di movimenti scenici che porterà poi avanti. Dante Antonelli lo conosciamo, regista teatrale, si dedica ora anche un po' alla coreografia, andiamo un po' ad esplorare, ed è un lavoro che prende le mosse dei racconti brevi di Yukio Mishima, che sono contenuti nelle raccolte La foresta in fiore, Atti di adorazione, e con i romanzi brevi La musica e La voce delle onde. Ci sono dei personaggi che sbocciano come fiori nella foresta immaginata da Mishima, sbocciano con tutte le contraddizioni, rivelandosi davanti al pubblico e togliendosi trucco e maschere e tutto quanto. Quindi questo è ciò che andremo a vedere 12-13 aprile alle Carrozzerie Nord, e questo, Federico, è tutto. Un abbraccio Simone, alla prossima! Ciao a tutti! Ciao! Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.